Nel frattempo, tra le notizie che sono arrivate oggi, il primo morto proprio nei giorni della rivolta, e poi il fatto che la polizia inizialmente, già da giovedì scorso appunto, aveva provato a difendersi dall'omicidio di quest'uomo, di questo 29enne, dicendo che l'uomo aveva una pistola e aveva provato a sparare contro la polizia. Tutto questo non è avvenuto, comincia ad emergere un po' di verità. Nessuno ha fatto fuoco contro gli agenti giovedì scorso. E allora dovremmo essere riusciti a metterci in contatto con il primo dei collegamenti annunciati poc'anzi. Intanto verifichiamo se effettivamente ci senti. Ci sei? Pronto? Pronto? Sì, noi ti sentiamo bene. Tu ci senti? Più o meno, non molto bene. Ok, adesso proviamo a vedere se riusciamo a aggiustare un po' il tiro. Nel frattempo, appunto, come raccontava il mio socio poco fa, tu sei un compagno che abita proprio in una delle zone che più sono state colpite dai disordini, non il primo giorno, ma a partire dal secondo, no? Se non sbaglio, giusto? Sì, esattamente. Qui diciamo, i disordini sono scoppiati ieri. Nel pomeriggio di ieri sono stato svegliato, stavo dormendo e sono stato svegliato dagli elicotteri che giravano sopra la strada principale della zona. Diciamo che questa zona qui a Londra Est, come molte altre zone sparse un po' in tutta Londra, sono state soggette a quelli che qui chiamano looting, ossia i saccheggi. Quello che sta succedendo un po', credo che l'abbiamo visto tutti seguendo la televisione. Più che altro quello che posso dire è fare una breve analisi di quello che penso che io di quello che penso stia avvenendo, anche se ovviamente diciamo forse è ancora un po' presto per tracciare un quadro complessivo della cosa, dato che queste rivolte, se così le vogliamo chiamare, sono iniziate solo da un paio di giorni. Non lo so, c'è qualche domanda particolare che mi volete fare o proseguo? No, guarda, nel senso, se tu hai anche qualcosa da proporre come analisi, io ti starei anche a sentire. Io quello che ti volevo chiedere in realtà in apertura, anche rispetto al quartiere, appunto, che è quello che tu hai visto con i tuoi occhi, è se quel quartiere c'è un qualche profilo specifico anche dal punto di vista, non so, da anche il profilo sociale del quartiere e quant'altro, per capire pure dove avvengono queste rivolte. No, il quartiere non credo, almeno per quello che ne so io, non ha un profilo specifico. Diciamo che tutti i sobborghi di Londra e tutti i piccoli quartieri di Londra sono più o meno simili, variano per la loro composizione etnica e culturale, perché ogni piccolo outskirt, si chiamano così, ogni quartiere ha la sua composizione culturale ed etnica, però fondamentalmente quello che è successo in queste rivolte è fondamentalmente la working class, o ancora meglio, se vogliamo, il gradino più basso della working class, gente che fondamentalmente, diciamocelo chiaro, ha anche poco da perdere. Magari si tratta sia di persone di colore che persone bianche, sia di persone inglesi che di persone diciamo immigrati di seconda o terza generazione, che insomma si trovano alle strette con i tagli al settore pubblico, tutti i tagli che ha fatto ultimamente il nuovo governo conservatore e liberal democratico, insomma tutta la politica che sta venendo messa in atto ultimamente. Eh sì, diciamo che sono gli effetti del governo Cameron, quello a cui, che in qualche modo poi hanno provocato questa bolla, che in un modo poi ogni tanto... In questo momento è difficile capire, creare una... un quadro complessivo della situazione. Sicuramente il governo Cameron ha avuto la sua parte, però dobbiamo anche tracciare un quadro un po' più grande relativo alla crisi economica e finanziaria che sta avviando il capitalismo attualmente. Certo, però comunque le politiche del governo conservatore hanno anche preso la loro parte. Ricordiamo l'innalzamento delle tasse universitarie, cioè le tuition fees, ma diciamo che ci sono anche altre cose precedenti a questo. Per esempio, c'è ancora un sentimento da parte delle persone per il bonus dei banchieri, insomma scandali che sono successi durante gli ultimi 2 anni. I bonus dei banchieri che sono stati i principali responsabili della crisi del 2009, se avete seguito, per chi ha seguito i giornali, c'è stato questo scandalo dei banchieri che avevano bonus milionari nonostante fossero responsabili insomma della bancarotta di diversi istituti finanziari e di aver messo in ginocchio un paese. E anche un altro scandalo che è stato sempre fa, se non sbaglio, quello dei rimborsi per i parlamentari inglesi, che è andato alla ribalta su India. Quindi questi parlamentari che si prendevano rimborsi di migliaia di sterline e che ha fatto arrabbiare un paese intero. Senti, ascoltami, comunque, un'altra... Sì, dimmi. No, una cosa che mi incuriosisce molto. La polizia inglese, comunque, il sistema inglese è abbastanza famoso proprio per il controllo. Cioè, il primo paese in Europa in cui si è sperimentata la videosorveglianza che è anche abbastanza diffusa un po' dappertutto. Io continuo a ritenere che poi questa esplosione di rabbia, di collera, sia anche frutto delle politiche securitarie. Quello che non mi riesco, che comunque tra l'altro leggevo che si chiedevano anche analisti, giornalisti inglesi e via dicendo, il perché. Come è possibile che la polizia sia sfuggito completamente il controllo della situazione, perché poi è venuto anche questo. Anche questo è un argomento un po' complicato, diciamo. La polizia qui si trova ad operare in mezzo a un mix etnico che forse è unico al mondo, no? Perché ci sono comunità etniche praticamente da tutto il globo. Londra è una situazione molto particolare. Inoltre c'è questa difficoltà obiettiva che hanno a operare, e questa difficoltà anche a interloquire con i responsabili di queste comunità. E spesso si tratta anche di un problema nel saper operare correttamente senza alterare l'equilibrio di queste comunità etniche. Vale la pena ricordare che ci sono già state altre rivolte, specialmente negli anni 80 a Brixton e anche a metà degli anni 90 a Brixton, che sono state causate da interventi simili della polizia. Per esempio Brixton, che è un quartiere a sud di Londra, che è stato anche interessato da questi scontri negli ultimi giorni, ha vissuto delle 3 rivolte principalmente, 2 negli anni 80 e 1 negli anni 90, che sono state causate da questi poliziotti bianchi, biondi, inglesi, che arrivavano lì magari sicuramente allarmati dalla situazione che versava in quelle zone, no, di criminalità, di quartiere quasi ghetto, che però praticamente arrivava e si infiltrava questa politica securitaria brutale, senza, che non accettava il colloquio con le persone, e quindi già in passato hanno causato queste rivolte. Londra non è nuova a questo tipo di rivolte. Sì, non è nuovo, però poi si ha la sensazione, anche parlando con altre persone che stanno a Londra, che sono poi fondamentalmente nasce ed è molto, ha una connotazione anche molto, se vuoi, anche molto nera, in quanto nasce proprio come una rivolta della comunità nera di Tottenham, che poi si è anche estesa in altre città o in altri quartieri, però ci sembra che sia un misto tra una rivolta generazionale tra una sollevazione del sottoproletariato urbano inglese. Ci sembra che siano un po' gli effetti collaterali dell'ultracapitalismo inglese, ma allo stesso tempo la sensazione è che ogni quartiere poi in qualche modo si è auto-organizzato, al di là delle presenze bianche, nere, rosse, gialle o verde, poi fondamentalmente ci sembra che sia abbastanza diffuso e l'età media delle persone che partecipano poi alla maggior parte dei riot sono tra i 10 e i 20 anni, anche molto giovanile. Sì, è corretto, sono tra i 10 e i 20 anni, molto spesso sono neri, ma io cioè, nelle cose che ho visto anche persone bianche. Non la vorrei connotare razzialmente questo tipo di rivolta, non mi piace molto, però più che altro secondo me è una rivolta del sottoproletariato, perché ricordiamo che la Gran Bretagna è uno dei paesi sviluppati con il maggiore divario sociale nel mondo. Diciamo che le classi più alte, magari compongono il 10% della popolazione, sono ricche 100 volte di più delle classi più basse. Questo è anche un altro dei fattori che ha contribuito a creare il mix esplosivo, anche inaspettatamente, che ha fatto scoprire queste rivolte. Però è anche vero che in certi posti, in certe zone di Londra, dove poi la comunità nera è forte e anche più rappresentata e rappresentativa, invece anche una connotazione razziale nasce anche con una rivolta da una forte connotazione razziale. Ah, sicuramente, sì, questo sì. Diciamo che le comunità nere sono che posseggono un loro ecosistema che va rispettato e non va alterato, con il quale bisogna saper interloquire, sicuramente, questo sì. Perfetto, senti, non so se hai altro da aggiungere, perché noi abbiamo anche un'altra persona già in collegamento, dunque se hai altro dici pure. No, va bene così. Perfetto, buon lavoro. Allora noi ti ringraziamo, ciao. Casomai ci sentiamo prossimamente, ciao. Pure Matte, ciao. E nel frattempo abbiamo sempre in collegamento un altro dei nostri redattori a cui diamo il buonasera. Buonasera a voi. Dunque, cosa proviamo a fare, a mettere un punto, poi ci ricollegheremo nuovamente su Londra, perché quello che è avvenuto in queste ultime tre giorni, in queste ultime tre giornate abbastanza intense, nasce la rivolta della comunità nera di Tottenham sabato scorso e poi il tutto prende una piega che si è allargato assolutamente, come un po' come gli incendi che si vedevano questa notte sui vari canali di informazione, dalla BBC fino alla Jazeera inglese. Si è allargato abbastanza in maniera abbastanza veloce e vistosa, coinvolgendo città come Birmingham e via dicendo. Ma diciamo che è un po' tradizione delle rivolte metropolitane in Gran Bretagna, ma l'abbiamo visto nel 2005 anche nella più grande rivolta delle banlieue in Francia. Diciamo che il segnale che arriva da un quartiere trovi eco in quartieri in cui esistono problematiche simili, una composizione sociale simile, comunità magari della stessa origine. In alcuni dei quartieri di Londra, dove si sono avuti diciamo il primo eco di quanto era accaduto a Tottenham, la presenza diciamo afro-caraibica è sicuramente forte, quartieri con una presenza che va dal 30 al 50%, credo che Tottenham sia tipo il 47%, diciamo un abitante su due è nero, e in quartieri simili l'eco di un'uccisione a sangue freddo e delle violenze, prima diciamo delle manifestazioni pacifiche, poi delle violenze scaturite da questa morte, hanno avuto una rapida circolazione. Credo poi che in qualche modo ci sia una sorta di ciclicità delle rivolte. 30 anni fa cominciò tutto a Brixton e poi tutto si estese alle periferie, le inner city delle altre grandi città. Qualcosa di simile è accaduto anche nel 2001, prima a Oldham, poi Leeds, anche se lì i protagonisti non erano più i neri, ma erano in particolare gli asiatici. Diciamo che guardando le immagini, cercando di capire quello che stanno raccontando i media britannici, cercando di capire quello che raccontano anche le televisioni satellitari in diretta, e tra l'altro ecco si può segnalare che Scotland Yard ieri aveva detto useremo le immagini della vasta rete di videosorveglianza presente nel paese. Si calcola, l'Independent qualche anno fa diede un numero, si parlava di 4 milioni, pensate, 4 milioni di telecamere di videosorveglianza, quindi praticamente l'intero paese monitorato. Beh, si cominciano a vedere le immagini di questi delle persone che hanno partecipato a questi riot. Tra l'altro dovrebbero finire sotto processo, ecco, per quello che hanno detto le forze dell'ordine. Tra l'altro c'è una pagina che ha messo in rete Scotland Yard, che è proprio una sorta di most wanted, con le facce di diverse persone, soprattutto giovani, i cosiddetti più ricercati tra i ricercati. Già da questa mattina c'erano diverse decine e decine di foto di Scotland Yard, appunto, che chiedeva aiuto, riconoscimenti, un'usanza che c'è anche in Inghilterra da parecchi anni, il chiedere. Certo, calcolare che quello che qui si è cercato di fare con col fenomeno ultra, diciamo, con gli stadi, cioè l'introduzione di una norma flagranza non in flagranza, cioè del fatto di una flagranza differita attraverso le immagini che documentano il compimento dell'eventuale atto criminale, è già regola in Gran Bretagna, per cui quelle immagini possono servire direttamente in un processo a carico delle persone che si vedono filmate e accusate poi magari di quello che stava avvenendo in quella strada, in quella zona, in quella notte, no? Quindi, diciamo, non sono soltanto, non è una galleria così di immagini innocente, ma è un vero e proprio, una vera e propria raccolta di fish, di schede, no? Per ai fini processuali. Diciamo che fin qui credo che questi elementi siano un po' tutti nella tradizione, quelli, diciamo, dell'eco rapido da una periferia all'altra. Forse una cosa nuova, se si vuole fare qui un bilancio, come in parte stanno facendo il Guardian, lo faceva anche oggi e molti altri giornali britannici, di che cosa è successo da Brixton a oggi. Ricordiamo Brixton 1900, primavera del 1981, quelli in corso oggi, che probabilmente si ripeteranno anche al calar del sole questa sera, questa notte, in tutta la Gran Bretagna, sono appunto i più grandi scontri urbani dall'epoca di Brixton. Alcune cose si sono modificate, c'è un segnale che indicavate già voi, che è quello dell'età. Ci sono ragazzini, sentendo Sky News ieri sera, il canale inglese, la parola che tornava di più nel vociare dei cronisti per strada era kids, cioè sono ragazzini. A un certo punto un cronista si è fatto vicino a un gruppo di ragazzi che aveva assaltato un Burger King, qualcosa del genere, per strappare uno di quei televisori che sono lì a mostrare le immagini in tempo continuo, e gli chiedeva: vi state divertendo? Ed erano ragazzini, veramente ragazzini. Quindi, diciamo, il segnale che in qualche modo questa rivolta rispetto al passato raschia un po' il fondo della crisi sociale, al di là delle motivazioni, al di là della composizione. L'idea che dei ragazzini stiano in giro la notte per partecipare a questi scontri dice qualcosa di quale società costruisca queste violenze. In una delle prime comparse pubbliche, diciamo, dei funzionari di Scotland Yard è stato detto: preghiamo i genitori di tenere a casa i loro figli, no? Anche questo è un segnale, non stiamo parlando di una rissa di paese, ma stiamo parlando appunto di interi edifici dati alle fiamme nella periferia delle grandi città. L'altro elemento che differenzia molto questo da quanto accaduto a Brixton è l'elemento delle cosiddette street gang. Negli ultimi anni la Gran Bretagna è stata attraversata da un'ondata di violenza non contro le autorità, non, diciamo, protestataria come potrebbe essere considerata quella di questi giorni, ma in qualche modo una violenza nichilista, quella che ha portato alla morte di almeno una trentina di adolescenti uccisi a colpi di coltello, no? Qualcuno lo ricorderà, si è parlato molto di questo fenomeno delle bande di ragazzini che si accoltellavano davanti a una discoteca, davanti a un bar. I rapporti più recenti stimano in decine di migliaia le gang, 200-300, anche di più, nella sola periferia di Londra. Al di là dell'elemento criminale, stiamo parlando magari del modo di stare a galla in un quartiere difficile, quello di trovarsi insieme per commettere in realtà piccoli reati, non stiamo parlando ovviamente della grande criminalità organizzata, ma di bande di strada, è probabilmente la cartina di tornasole di che cosa si è prodotto nell'arco di alcuni decenni, appunto, che cosa è passato, che cosa è accaduto nei 30 anni che ci separano da Brixton, che probabilmente la marginalità urbana è stata talmente tenuta ai margini, no? Scusate il gioco di parole, della vita sociale, diciamo, si è creata una sorta di gabbia, di circo in cui gli animali si potevano anche scannare tra loro, tanto c'erano le telecamere della videosorveglianza a garantire che non uscissero dal loro confine, che questi quartieri si sono effettivamente anche un po' inselvatichiti, cioè che la spirale di violenza è diventata sempre più una spirale anche autodistruttiva, e questo forse un pochino le modalità della rivolta con interi edifici dati alle fiamme in modo un po' assurdo, no? Secondo i canoni anche delle rivolte urbane che abbiamo conosciuto dagli anni 70 in poi in tutta Europa, ci dice che ci sono anche questi elementi, no? Che sono elementi nuovi nel rispetto alle forme tradizionali del riot che in qualche modo l'Inghilterra aveva conosciuto e forse inventato, insomma, dalla seconda metà degli anni 70 in poi. Tra l'altro, appunto, facevi riferimento a quella che è la partecipazione giovanile. L'Inghilterra è uno dei paesi probabilmente con la più grossa violenza minorile, il più grosso abbandono scolastico, spesso e volentieri la fascia tra gli 8 e i 13-14 anni, è una fascia di età anche abbastanza, cioè, anche abbastanza diversa, diciamo così. I bambini inglesi sono anche abbastanza diversi dai bambini italiani. Infatti l'altro giorno tra i primi arrestati, tra i primi 100 arresti, c'era un bambino di 11 anni, proprio perché la partecipazione è anche così diffusa e così generazionale, che vede degli elementi molto ma molto giovani partecipare a quelli che sono degli scontri, che però poi non sono rimasti nei quartieri di provenienza della maggior parte delle gang o non gang o quello che siano, però poi si sono estesi anche andando in qualche modo a sfociare all'interno del centro di Londra, nel cuore di Londra. Che questo è un po' particolare, perché non lo so, l'ultimo, se uno faceva il confronto con la banlieue, con i moti della banlieue parigina, il tutto è rimasto, cioè Parigi non è stata neanche sfiorata da quello che succedeva per una settimana intera tutte le notti. Qui invece si è allargato tutto quanto a macchia d'olio, e Londra stessa, forse perché Londra è una città abbastanza particolare dove non c'è una banlieue e un centro così separato, è tutto un po' più mischiato. Questo però è avvenuto in maniera anche abbastanza particolare. Diciamo che probabilmente se le cose continueranno è possibile che la rivolta si sposti sempre di più verso luoghi simbolici anche del centro, anche perché appunto l'impressione che c'è da qui, osservando e leggendo le cose che stanno dicendo gli inglesi più o meno in diretta, è che ci siano varie rivolte dentro la rivolta, cioè ci siano degli elementi più esplicitamente politici e di rivendicazione politica, ci sia la rivolta dei neri. Ricordiamo che in Gran Bretagna nell'ultimo decennio si è parlato molto della questione islamica, c'è stato tutto l'allarme della Londoninstan dopo le bombe del 2005, e in generale si è posto il problema di come convivere con l'Islam, eccetera. La questione nera è in qualche modo la grande rimossa della società britannica, si dà come per scontato che i neri siano più inglesi degli altri immigrati, per così dire, arrivati dopo dalle altre colonie o ex colonie. La verità è che invece molti di questi quartieri sono quartieri in cui si vive con i sussidi e dove si ha la sensazione di essere dei cittadini di serie B. Dicevo, ci sono tutti questi elementi, cioè ci sono le gang, ci sono i ragazzini, c'è una parte politica più cosciente, c'è una parte di rabbia nera, e c'è probabilmente il fatto su tutto che a fare da collante ancora una volta c'è, cioè, sia l'atteggiamento della polizia, sia una politica, quella che è il volto di David Cameron, che oltre a parlare di tagli alle spese sociali annuncia ad esempio la fine della multiculturalità e del modello multiculturale del paese, dicendo dobbiamo ritornare a dei valori inglesi, detto, diciamo, a dei cittadini inglesi magari giovani, con un colore della pelle che non è il bianco e che hanno sempre più o meno conosciuto il lato in ombra, diciamo, di questa società, l'idea che qualcuno stia annunciando che non solo taglia magari i soldi per i centri sociali di quartiere, per le spese che di management del territorio dove vivono, ma che in qualche modo torni anche a spiegargli che cosa vuol dire essere inglesi, dopo che per tanti anni il multiculturalismo ha significato anche tolleranza, beh, questo probabilmente è una benzina ulteriore sul fuoco di un fatto di cronaca brutale come quello di Tottenham, che però magari si sarebbe fermato lì. Credo che l'eco e il diffondersi della rivolta sia anche nel mescolarsi, un po' come nella stagione della Thatcher, del vecchio volto brutale di una parte della polizia almeno, e di una politica invece seriamente arrogante e seriamente violenta dal punto di vista dei contenuti di ciò che si propone. Anche perché nel frattempo ricordiamo che, leggendo il CEO del Guardian, ci stanno in questo momento anche in altre città di Londra, si registrano dei disordini da West Bromwich a Manchester fino ad Ealing, comunque della situazione con interventi della polizia, comunque quelle che si sono un po' succedute in questi giorni. Un altro spunto che volevo darti, poi abbiamo in collegamento anche l'altra nostra corrispondente, che è molto particolare il fatto che a una settimana di distanza comincia ad emergere la verità sulla morte di Mike Duggan, l'uomo sparato dalla polizia giovedì scorso, ossia il fatto che la polizia si era difesa appunto dicendo e affermando che l'uomo aveva sparato contro di loro, avevano risposto al fuoco. Sta emergendo il fatto che Duggan non ha mai sparato, e sicuramente questo sarà, ma si ha la sensazione che sarà un altro po' di benzina sul fuoco. Nel frattempo salutiamo anche l'altra nostra così corrispondente. Ciao. Ci sei? Buonasera a tutte e tutti. Sì, ci sono. Ti no, è il bip di prima. Anche se sono molto disturbato. Sì. Però ci sono. Allora, tu lavori, vivi ad Hackney, lavori a Tottenham, in questi giorni hai attraversato la città abbastanza. Sì, così, no, diciamo che io lavoro a Tottenham, Haringey e Enfield, che sono i due quartieri da cui è nata tutta i riot, le rivolte. E lavoro come outreach worker, che significa che sto per strada e contatto le ragazze, le sex workers per strada, quindi le ragazze che lavorano per strada e anche le ragazze che lavorano all'interno degli appartamenti, negli appartamenti dove appunto lavorano come sex worker. E quindi lavoro dal 2009 in questi due quartieri, e diciamo che da quando Cameron è entrato a far parte, e anche da quando è cambiata anche il sindaco di Londra, comunque ci sono stati dei cambiamenti molto forti. Gli ultimi tre mesi, non è vero che questa cosa che a un certo punto è successo tutto per caso, gli ultimi tre mesi sono stati, la tensione si sentiva moltissimo, innanzitutto si è sentito dal punto di vista dei servizi sociali, ci sono stati i tagli fortissimi, tanto che molti dei centri per giovani o assistenza sociale è diminuita moltissimo. E altra cosa, è aumentata una forte repressione per le strade. Dalla parte delle ragazze che lavorano all'interno dei flat, degli appartamenti, i raid della polizia sono aumentati tantissimo, tanto che noi non riusciamo più a raggiungere le ragazze, non riusciamo più a raggiungere le ragazze perché non mettono più pubblicità non fanno pubblicità nei giornali, sulla carta stampa, proprio dove prendevamo i messaggi pubblicitari. Dall'altra, le ragazze invece per strada si nascondono, questo perché hanno aumentato moltissimo la polizia per strada e hanno attuato questa cosa di furgoni della polizia con telecamere sul tettino, quindi che vanno a passo d'uomo. Questi furgoni fermano tutte le persone che stanno per strada che stanno per strada per un periodo di tempo. Quindi per esempio le ragazze che lavorano non potevano più stare nelle strade dove usualmente lavoravano, e anche per tutti gli altri comunque c'era una forte tensione, e questo è un dato particolare, perché in una zona come Tottenham, che Tottenham ha una delle percentuali di disoccupazione che più alte di tutto il paese, si arriva quasi al 9% di disoccupazione, E inoltre, come ha detto anche l'altro corrispondente, ha una percentuale della comunità nera che abita quei quartieri. Questo dato non è da sottovalutare, proprio perché la rivolta nasce in un contesto che è quello dell'uccisione di un ragazzo nero da parte della polizia. Questo è già stato detto forse in un'altra corrispondenza, però le morti in stato di arresto qui a Londra sono una delle problematiche, uno dei problemi maggiori che vive Londra. Che vive l'Inghilterra e anche il Galles. Si parla di morti in stato di arresto dal 1969 di più di 2300 morti. Del 70-80% dei casi sono giovani neri. Il che significa che la comunità nera sente questo problema molto forte. Tanto che appunto ci sono organizzazioni di cui fanno parte famiglie che vengono da Hackney, che è questo quartiere appunto vicino a Haringey e Enfield, che fanno parte di organizzazioni che cercano di supportare le famiglie che hanno perso persone che sono morte appunto in stato di arresto. L'altra cosa, altri dati voglio dare, perché appunto questa particolarità che è la discriminazione razzista istituzionalizzata non è una cosa da sottovalutare in un contesto del genere. Ci sono all'incirca ogni anno 600 morti e se sei nero ci sono 10 volte maggiore la possibilità di essere ucciso. Quindi questo aspetto ha portato appunto le 200 persone che erano a Tottenham sabato sera, dopo l'uccisione di Matt Duggan, a sentire il problema molto di più. E non solo, Brixton, che è appunto un altro quartiere, ha risposto subito dopo, è stato il quartiere che ha risposto ai riot che ci sono stati. Dove nascono queste rivolte? Nascono in quartieri come Haringey, Enfield e Hackney, che stanno subendo una forte gentrificazione, dovuta anche dal fatto che nel 2012 ci saranno le Olimpiadi. Questo ha portato innanzitutto in pochissimi mesi loro volevano pulire le strade, volevano fare in modo che da qui al 2012 ci fosse un aspetto di questi quartieri totalmente diverso. Ed è questo è stato il risultato che ovviamente ci porta anche ad analizzare la cosa in maniera più ampia, non solo dal punto di vista neoliberale e dalla crisi neoliberale, ma anche dal punto di vista appunto di discriminazione razzista che c'è all'interno di questi quartieri. Guarda, Una cosa che volevo dire è che per esempio un quartiere come Haringey, dove sta appunto Tottenham, è un quartiere che non è un quartiere periferico, cioè non ha soltanto zone di sottoproletariato, ma ci sono anche zone molto ricche. Come dicevi tu, la periferia qui a Londra non è una periferia che è distaccata dal centro, o non ci sono quartieri dove ci sono quartieri dove molto poveri o quartieri molto ricchi, ma queste due cose, questo aspetto contraddittorio vive all'interno di una stessa zona. Dimmi, mi stai facendo una domanda? No, sì, stavo venendo dall'altro Davide degli elementi e degli spunti molto, molto interessanti. Uno non ha mai associato il fatto, no, dell'imminente Olimpiadi, come in qualche modo abbia messo anche in moto un apparato, se vuoi, repressivo, e come spesso avviene, di spostamento degli indesiderati un po' più lontano dalle zone centrali. Sì. Avviene un po' in tutti i paesi. È interrotta perché il vostro credito è esaurito. Eccolo lì, noi nel frattempo ci rimetteremo subito in collegamento con la nostra redattrice. Nel frattempo chiediamo scusa di questa interruzione, ma ci stiamo per rimettere nuovamente in collegamento. Come già detto, stiamo provando nuovamente a metterci in contatto di nuovo con Londra. Le schede telefoniche costano, di conseguenza la radio non si può permettere chissà quali corrispondenze. Pronto, rieccoci, ci sei? Eccoci. Sì, la voce ora sarà un po' più metallica, ma va bene lo stesso. Dicevamo, no, tu hai dato degli spunti molto interessanti, il collegamento con l'Olimpiade, il collegamento col fatto che l'aria negli ultimi mesi si è intesita ulteriormente. Poi le cose non avvengono mai per caso, possono essere casuali le scintille, poi gli incendi evidentemente erano e sono il sintomo di un malcontento, di una difficoltà, di una trasformazione di una società inglese che evidentemente si sta trasformando a una velocità tale che neanche il ceto politico stesso riesce a stargli dietro, spesso colpevolmente, altre volte per incapacità. Una curiosità era proprio come sta reagendo, ci possiamo immaginare quelli che sono i toni, anche vedendo un po' le TV o i siti inglesi, ma come sta reagendo appunto il ceto politico, non dico semplicemente londinese, ma quello inglese, al di là del fatto che Cameron è tornato di corsa in... Sì, ma in realtà loro sono spiazzati tanto quanto spiazzata. No, non ti sentiamo, scusaci, eccomi, vai. No, un attimo che non riusciamo a sentirti, né abbiamo ancora qualche problema come al solito, non è... Io mi sento molto bene. Lo so, no, penso che sia un problema di cavo, riproviamo adesso. Adesso mi senti? Perfettamente. Ecco, allora quello che dicevi, che la domanda che tu hai fatto prima sul come appunto la polizia che... ha delle strategie militari e di controllo molto forti, che appunto abbiamo visto le manifestazioni di marzo e quella di ottobre, come hanno attuato delle strategie di controllo, come il kettle di controllo delle masse, come invece siano così impreparati a una rivolta di questo genere. Innanzitutto perché appunto non ci sono né capi né gruppi politici in questa situazione. E c'è una velocità, i riot sono stati fatti con una velocità tale che soprattutto infatti proprio perché vivono questi ragazzi vivono i quartieri e sanno benissimo dove, sanno molto meglio della polizia dove poter scappare, perché conoscono benissimo il loro territorio. Si sono trovati completamente impreparati, anche perché, da quello che ho visto ieri e da quello che è successo ad Hackney, poi i ragazzini di 10 anni, di 11 anni, di 12 anni che non fanno entrare la polizia in alcune strade, queste cose io non le ho mai viste, cioè nel senso che non hanno paura di nulla, non, è una sensazione come di completa non perdono nulla. E menano come disgraziati questi. Comunque, a parte questo, non penso che in questo momento loro abbiano una linea politica che vogliano attuare i politicanti, anche se appunto ho visto al telegiornale, alle varie news, il sindaco di Londra che scendeva con la scopa in mano che simbolizza appunto vogliamo pulire le nostre strade, ma le rivolte si sono talmente espanse che non penso che loro abbiano in mente qualcosa se non appunto far intervenire l'esercito. Cioè Cameron è venuto e questa mattina è andato a parlare appunto con l'esercito, quindi in realtà parla in questo momento di 550 arrestati e di altri che appunto non si sanno. Quindi la situazione è veramente una situazione di emergenza, ma si nota dalle strade. Ieri era i negozi erano tutti chiusi, le persone che giravano per strada non ce ne erano molte, quindi si respirava appunto una situazione di emergenza. Senti, scusa, io ti volevo fare una domanda anche rispetto a quello che dicevi te sul fatto appunto che non ci sono capi o movimenti specifici. Infatti quello che è mancato un po' in questi giorni è che non si è sentita la voce dei rivoltosi, si sono sentite così un po' di appelli da parte di capi di comunità o di persone che lavorano magari nell'ambiente delle associazioni giovanili e quant'altro, che in qualche modo davano la lettura di questa rivolta come la conseguenza dei tagli ai centri di aggregazione giovanili e quant'altro, che somiglia un po' a quando anche nelle banlieue francesi alcuni così leader di comunità provavano a farsi interpreti di quanto succedeva. Dopodiché di solito, come nelle banlieue francesi, quando esplode questa cosa è proprio perché il ruolo di mediatori anche di questi leader delle comunità evidentemente è saltato e le loro parole rappresentavano un po' soltanto loro stessi. Adesso effettivamente quanto senso ha quello che dicono appunto queste persone? Ma in realtà cioè, sussiste anche questo, cioè, ho sentito varie cose rispetto a dei leader delle comunità come vengono chiamati, però sono persone appunto che lavorano in associazioni o appunto lavorano in gruppi che sono politici. Come appunto le organizzazioni delle famiglie che lavorano per le morti in stato di arresto. C'è un forte, comunque io continuo a ripetere questo elemento che è il forte razzismo. È vero che in molti quartieri, come per esempio Enfield o ieri Hackney, cioè, ci sono stati anche molti ragazzi bianchi, ma c'è una forte discriminazione razzista qui in Inghilterra, che appunto la potevamo vedere soltanto in alcuni quartieri, poi ci rendiamo conto che invece si è espansa completamente in tutta la città e in altre città. Una cosa però che non dobbiamo appunto, no, non dobbiamo magari dare un sovrasenso è ovviamente una cosa politica, però non penso che questi poi, cioè, sono proprio rivolte di working class, ma che sono anche quelle che fanno più paura. Probabilmente non andranno avanti in un percorso politico strutturato come lo possiamo pensare. Da qualche parte, in qualche modo fanno anche un po' più paura, proprio perché sono fluide, trasversali, perché come dicevamo coinvolgono soprattutto ragazzi abbastanza giovani, ma non soltanto, bianchi, una forte presenza comunque della comunità nera, ma anche bianchi. Il tutto poi in una miscela abbastanza particolare che vedeva poi stanotte, almeno sentendo i racconti che arrivavano dai giornalisti inglesi, anche in alcuni quartieri i cittadini londinesi auto-organizzarsi a difesa dei propri negozi, soprattutto sotto casa. Io abito al Dalston, dove appunto ci sono appunto i negozi turchi e curdi, e la comunità, soprattutto la comunità turca, si è... c'erano branchi di uomini che cercavano di vigilare le strade. I negozi erano completamente chiusi e sbarrati, e le persone stavano ferme a vedere cosa succedeva per poter proteggere poi le proprie proprietà. Che voglio dire, è ovvio che c'è anche quella, la paura della, perché le rivolte non vanno a colpire soltanto le grandi marche o i grandi negozi. Purtroppo poi ci si sono ritrovati in molti casi in cui ci sono case bruciate o macchine di persone che ovviamente non è che contribuiscono al sistema capitalista, però questo è un altro fattore importante, quanto la rabbia di queste persone poi si sia completamente espansa dappertutto. E questo è un altro dato. In questo momento nessuna persona può essere indifferente a questa cosa. Ovviamente alla rabbia di questi ragazzi che stanno facendo comunque un lavoro di distruzione totale della città. E una cosa che volevo sottolineare, che in ogni quartiere si stanno attuando delle misure coercitive, cioè delle misure per la sicurezza e per i crimini d'odio, per quello che qui chiamano i crimini d'odio. Quindi le misure di pulizia sono aumentate, nel senso che non solo non si può stare più per strada e bersi una birra, ma qualsiasi tipo di crimine che può essere denunciato scatta subito la polizia. Quindi gli hate crimes, quelli che poi abbiamo visto per tutte le misure cautelative che riguardavano le donne, la comunità LGBT, però a scapito ovviamente della comunità nera. Quindi questo imperialismo bianco comunque è un elemento importante, in tutto ovviamente messo insieme all'interno di una crisi economica molto forte. Senti, le ultime due domande poi andiamo a concludere. Questa... No, una cosa che volevo soltanto evidenziare, come da ottobre fino adesso ci sono state appunto manifestazioni di studenti che avevano una componente molto bianca. mentre da aprile in poi ci sono stati altri riot, uno a Bristol, uno a Glasgow e l'altro quando c'è stato il matrimonio Royal Wedding, c'è stato un altro riot, quindi c'è stata un'escalation. Non è vero che a un certo punto è scoppiato tutto insieme. Cioè, comunque da aprile in poi, appunto, da dopo le manifestazioni in poi, c'è stato un altro tipo di conflitto sociale che si è messo in moto. No, ma è evidente, appunto, è quello che è successo in questi giorni, che è semplicemente saltato il tappo e quello che bolliva c'era parecchia, ma parecchia roba. Senti, appunto, andando in conclusione, gli ultimi due spunti, ti abbiamo chiesto un po' come le risposte del ceto politico. Con te abbiamo già affrontato in altri spazi in questa radio un po' e parlato dei movimenti di estrema destra in Inghilterra. Come si sta la destra inglese, pensiamo all'EDL quanto al BNP, come si stanno rapportando a questi tumulti, visto che sappiamo che soprattutto nel nord dell'Inghilterra per questo sabato, se non sbaglio, l'EDL ha organizzato almeno un paio di manifestazioni? Su questo non ti so rispondere molto bene, però devo dire che non ho seguito, però vabbè, non penso che su questa cosa ci saranno delle risposte molto forti da parte loro. Sono quasi convinta di questo, perché comunque negli ultimi tre mesi c'è stata una manifestazione ogni sabato in giro per l'Inghilterra da parte dell'IDL, quindi ovviamente non mancherà anche l'aspetto razzista su questo, anzi, cioè, me l'aspetto completamente. No, perché appunto, per chi non lo sapesse, parliamo dell'EDL, l'English Defence League, che sarebbe fondamentalmente una formazione di estrema destra in chiave anti-islamica, anche abbastanza trasversale, oppure cerca di porsi in maniera trasversale, senza nessuna connotazione di estrema destra, quando poi invece gli appartenenti e quello che produce quello è. L'ultimi due spunti, perché stavo un po' seguendo quello che dicono anche le agenzie. La polizia già ha promesso che comincerà a fare uso dei proiettili di gomma per dare anche le varie strategie che stanno pensando. Stanno ovviamente, cioè, dai getti d'acqua ai proiettili di gomma. Ce ne sono varie, che mi sembra un po' di ricordare l'esercito israeliano nelle manifestazioni in West Bank, che il modo europeo in qualche modo di gestire la strada. Queste sono state le varie cose, ma non è un caso che appunto Cameron sia andato a parlare poi con i capi dell'esercito. E quindi che si stia attuando in qualche modo una strategia militare di gestione delle strade, delle piazze. Anche perché la situazione è talmente grande che ci sembrerebbe anche difficile che la polizia, proprio per numero e forze, possa gestire un po' tutto, visto che stanno mandando gli agenti anche da altre parti. Nell'Inghilterra tutti li stanno facendo confluire a Londra, quando poi comunque i fuochi sono accesi anche appunto in altre città del nord. L'ultima cosa, sempre leggendo le agenzie, per dare anche un senso di quello che sta avvenendo in Inghilterra, c'è l'amichevole di domani sera a Wembley tra Inghilterra e Olanda. No, queste sono notizie abbastanza così, che di poco interesse da una parte, però danno il senso, perché si parla addirittura che il campionato inglese, che doveva cominciare il sabato prossimo, che è un evento, cioè che è un qualcosa che muove migliaia di persone, si parla già di spostare il tutto, semplicemente per far capire che è un paese che in questo momento è abbastanza bloccato e fermo. Sì, no, lo dicevo prima, comunque la città è completamente bloccata, cioè oggi dovevamo andare a Tottenham, non ci siamo andate, proprio per questo, proprio perché appunto, cioè si vive nel chi va là, sono in quella, vengo in quel quartiere, ci sono o non ci sono, quindi c'è questo tipo di emergenza. Però devo dire anche un'altra cosa, che Holloway, dove sta il... Dove ci sono anche, allora, ci, cioè, Non so dove verrà fatta questa partita di calcio, in quale a Wembley, stadio. Vabbè, il solito Wembley stadio. Ok, perché le rivolte oggi sono cominciate anche a Ovest, cioè anche ieri in qualche modo c'erano, però pare che si siano appunto spostate verso Ovest, dove appunto c'è lo stadio. Dall'altra parte, Holloway, dove c'è l'Arsenal, è stato anche quella parte completamente distrutta. Ma non penso, cioè il problema è che qualsiasi quartiere in questo momento vive l'emergenza verranno qui o non verranno qui, o si in qualche modo si mobilizza, ci sarà qualcosa in questo quartiere oppure no. Quindi questo probabilmente cioè in realtà si è completamente fermata la città. Quindi è ovvio che anche una partita di calcio non verrà fatta. Senti, allora andiamo a concludere insieme ricordando che è stato arrestato un bambino di 16 anni, un ragazzino di 16 anni a Glasgow perché incitava ai riot tramite Facebook. Ricordiamo che il proprio Scott Layard ha detto che monitorerà Facebook e via dicendo, Facebook, Twitter e gli altri social network, proprio per andare a caccia di chi subilla. Ma di già chi... è stato fatto. Sì, sì, di chi partecipa. Ricordiamo che anche la BlackBerry aveva promesso di aiutare. La BlackBerry ha bloccato, è stata bloccata, ha bloccato i messaggi. Come, e penso anche appunto che da quello ogni sistema di comunicazione, sia internet che via cellulare, verrà man mano sempre di più bloccato, comunque, e sempre più monitorato. Tutto questo senza stare in Egitto, per esempio, no? Siamo nella ricca e opulento Nord Europa, dove a differenza di altri paesi il capitalismo ha scricchiolato molto, ma molto di più, perché questo ci sembra quello che sta avvenendo in Inghilterra. Da una parte ho letto, non so se siamo d'accordo, andiamo a chiudere, da una parte c'era un articolo, se non sbaglio, sul Corriere in cui si parlava dell'intifada dei disperati, degli emarginati, degli ultimi della terra, in questo caso della terra inglese. Penso che come metafora ci possa anche abbastanza stare. Dunque, così sì. Chiudiamo, se ci saranno sviluppi nei prossimi giorni, perché tanto ci saranno sviluppi nei prossimi giorni, perché non è che si risolverà stanotte o domani mattina tutto quello che sta avvenendo, sicuramente ci torneremo a collegarci sempre intorno a quest'ora, che poi è orario post lavorativo per tutti. Va bene? Va bene. Okay. Ciao, grazie ancora, no, veramente grazie per l'ottimo contributo. Ciao a tutti e a tutte. Ciao, ciao. Ciao.